البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Dedichiamo anche questa puntata all'organizzazione Giovani Palestinesi d'Italia e ci auguriamo di poterne dedicare altre in futuro. Sul loro sito di Facebook di Giovani Palestinesi Italiani è presente un conciso ed efficace video commento sulla visita del ministro degli esteri Luigi Di Maio a Tel Aviv, di cui parlerà anche Marina nella selezione stampa. Inoltre troverete un appello per la liberazione di Maher, un palestinese prigioniero politico in detenzione amministrativa in Israele, detenuto senza accuse né processo ed in sciopero della fame ad oltranza. Nella puntata scorsa gli italo-palestinesi di seconda generazione ci hanno parlato del loro senso di responsabilità che hanno ereditato dalle generazioni precedenti, del loro desiderio di rinnovamento organizzativo, di caratteristiche di inclusione politica, religiosa e di genere della loro organizzazione, di nuove forme di comunicazione e scelte di modalità di lotta per la causa palestinese. La lotta per l'autodeterminazione e per i diritti dei popoli contro i muri di separazione sono cause che interessano tanti popoli del mondo, ma che hanno nella Palestina il caso emblematico di responsabilità ed ipocrisia dell'Occidente. Da parte di coetanei ed in generale da parte della nostra gente, i giovani palestinesi dichiarano di avvertire simpatia, condivisione, stima, sia nella vita studentesca e professionale che in quella artistica e sportiva. In questa puntata i GP ci parleranno dei loro rapporti con la Palestina e della diaspora palestinese, considerando che i palestinesi della diaspora sono assai più di quelli che riescono ancora a vivere in Palestina, malgrado le pratiche israeliane per cacciarli via. Questo subito dopo la selezione stampa della settimana. Ciao, sono Marina e vi parlo degli articoli che abbiamo scelto per questa settimana e che potete leggere per intero ed in italiano sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. Il primo articolo, tradotto dal sito del Middle East Monitor, è l'opinione di Ramona Awadi. Ramona Awadi è una giornalista freelance, blogger, specializzata in problematiche riguardanti Palestina e America Latina. Il titolo dell'articolo è «I palestinesi non hanno bisogno di uno status di vittime, hanno invece diritto ad una lotta anticoloniale». La definizione di status di vittima, data da un consigliere degli Stati Uniti nell'introduzione al cosiddetto accordo del secolo, quello dell'amministrazione Trump, dice Ramona, non è solo un insulto politico alla storia e alle narrazioni palestinesi, ma così facendo si cercano di eliminare le rivendicazioni politiche già indebolite da inutili risoluzioni delle Nazioni Unite e dalla propaganda umanitaria. La vera narrativa palestinese è quella della rivendicazione e dei diritti politici, è quella dei rifugiati palestinesi cui si tenta di togliere ogni visibilità, e tutto questo con l'avallo dell'autorità palestinese. Il secondo articolo invece è stato tradotto dal sito Quds News Network, una rete indipendente che fornisce notizie tramite i social media sulla causa palestinese, e con questo secondo articolo vogliamo ricordare il massacro di Kfar Qasim. Questo massacro è stato compiuto il 29 ottobre del 1956. 49 persone sono state uccise a sangue freddo dall'esercito israeliano. Non avevano fatto alcuna provocazione, semplicemente avevano violato un ordine di coprifuoco di cui non erano a conoscenza. E di queste 49 persone, 12 erano donne e ragazze, 17 erano bambini, il più giovane di questi aveva solo 7 anni. Il terzo articolo è stato preso dalla rivista Contropiano, giornale online, ed è del suo direttore Sergio Cararo e riguarda la Gran Bretagna. Riguarda in particolare Jeremy Corbyn, sospeso dal Labour Party, dal Partito Laburista, perché filo-palestinese. Cararo dice: è un atto vergognoso e inaccettabile. Il Labour Party ha deciso di sospendere l'ex segretario Jeremy Corbyn per antisemitismo. Questa è un'accusa assurda, soprattutto se motivata con la partecipazione di Corbyn a manifestazioni di solidarietà del popolo palestinese. Questo è un atto gravissimo e inquietante che conferma il clima maccartista che la lobby sionista e di circoli filo-israeliani stanno diffondendo in Europa. Passiamo adesso al quarto articolo, che è della redazione di Nena News e riguarda il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. Di Maio vola in Israele e rafforza l'unione tra Roma e Tel Aviv. Il ministro degli esteri Di Maio ha firmato con il suo omologo israeliano Ashkenazi il rinnovo dell'accordo di collaborazione tra Israele e Italia nei settori dell'istruzione, scienza, cultura e sport. Nella conferenza stampa congiunta, Di Maio ha spiegato che l'intenzione italiana è di aumentare le relazioni economiche con Israele. Il primo obiettivo illustrato è accrescere il nostro interscambio commerciale, rafforzare la cooperazione nei settori più innovativi ed incoraggiare le nostre imprese ad essere più presenti sul mercato israeliano. Passiamo adesso al quinto articolo, che è stato tradotto dall'ISM e dal Palestine Information Center. E riguarda la raccolta delle olive, una stagione che rivela i crimini israeliani. L'esercito israeliano ed i coloni ebrei continuano a molestare i contadini palestinesi in Cisgiordania. Distruggono centinaia di alberi, rubano raccolti, impediscono agli agricoltori di accedere alle loro terre, scaricano nel terreno acque reflue provenienti dalle colonie. La frequenza di questi attacchi aumenta durante la stagione di raccolta, soprattutto quella delle olive. Quest'anno i contadini sono particolarmente in perdita, ma queste perdite non sono dovute alla scarsità della produzione di olive, ma si è visto invece un forte, fortissimo aumento dei crimini dei coloni, soprattutto dei coloni. Passiamo infine al sesto articolo, che è da Infopal, agenzia stampa su Palestina e Medio Oriente, ed è la traduzione di un articolo del Middle East Monitor e riguarda i bambini. Israele sottopone i bambini palestinesi ad abusi fisici e psicologici. Israele è l'unico paese al mondo che persegue regolarmente i minori nei tribunali militari. E ovviamente i tribunali militari sono privi delle garanzie minime necessarie per un processo equo. Per di più, i bambini palestinesi arrestati da Israele subiscono abusi e torture sistematici, legittimati da magistratura e da governo. Quindi la situazione di questi giovani è molto grave, ma è ben documentata. La gravità del problema è stata messa in rilievo dall'ONG Save the Children in un nuovo rapporto. Con questo è tutto. Dos de Cervantes, el sentir extrañar sombras del pasado. Memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña. Oggi abbiamo di nuovo ai nostri microfoni tre membri dell'Associazione Giovani Palestinesi d'Italia. Nell'incontro precedente, alla domanda se alla loro associazione aderivano anche italiani, ricordo che Karim rispose: ma io sono italiano. Allora, è proprio da qui che vorremmo ripartire oggi, cioè dalla loro nazionalità. La volta scorsa, mi rivolgo a voi, no? Abbiamo un collegamento a Mal, Karim, Nadia, scusate. La volta scorsa, appunto, avete parlato dei vostri rapporti con l'Italia. Ecco, oggi vorremmo sapere, quindi da voi, giovani di seconda generazione, che rapporto avete invece con la Palestina? E cioè, come conoscete la Palestina? Attraverso i racconti degli adulti? O avete avuto anche la possibilità di andarci? E se questo è successo, diteci se avete incontrato delle difficoltà d'ingresso oppure no. Ascoltiamo quindi la testimonianza delle vostre esperienze e chi inizia a parlare? Posso iniziare io? Va bene, allora Dalia, raccontaci. Allora, questa è una domanda molto interessante perché in realtà i palestinesi, siccome hanno una situazione un po' particolare, la maggior parte dei palestinesi vive in diaspora, moltissimi palestinesi sono in esilio e quindi cresciamo tutti all'estero e non siamo, moltissimi di noi non hanno mai conosciuto la Palestina, non sanno nulla di Palestina, moltissimi non hanno neanche più i parenti in Palestina perché sono tutti andati via per ovvie ragioni, e però nonostante questo siamo comunque legati alla Palestina, la amiamo e continuiamo a sentire che è una lotta che ci riguarda. I palestinesi sono molto divisi, nel senso ogni palestinese, cioè i palestinesi hanno tutti dei documenti diversi, hanno dei rapporti diversi con le istituzioni, quindi ogni palestinese ha la sua storia, il suo percorso per poter entrare in Palestina, ha un viaggio diverso rispetto a un altro. Io per esempio sono una ragazza di seconda generazione perché sono nata e cresciuta in Italia, sono una cittadina italiana, però sono una di quei pochi palestinesi che ha anche la cittadinanza palestinese, ho la doppia cittadinanza perché i miei genitori, soprattutto mia mamma, è sempre stata molto legata alla Palestina e alla sua terra, quindi sempre, quasi tutte le estati, le passavamo in Palestina, nella mia città, Betlemme. E quindi poi all'età di 16 anni ho ottenuto il passaporto palestinese, la carta d'identità palestinese. Per questo motivo non posso entrare dall'aeroporto di Tel Aviv, quindi io non mi fanno proprio passare dall'aeroporto di Tel Aviv, sono obbligata ad andare a prendere l'aereo, andare dall'Italia alla Giordania, poi dalla Giordania percorrere il famoso Jesser, i controlli giordani, poi arrivo in Palestina, i controlli palestinesi e poi i controlli israeliani. E questo, e a volte i viaggi sono molto molto lunghi perché i controlli richiedono tantissimo tempo, perché a volte lo fanno proprio apposta a far durare il tuo viaggio molto più di quanto dovrebbe, perché in realtà dalla Giordania alla Palestina, se non ci fossero tutti questi controlli, tutti questi militari ai confini, sarebbe neanche mezz'oretta di macchina, no? In condizioni normali. Però in realtà a volte ci puoi mettere 6 ore, 7 ore, 8 ore, in base a come gira loro, in base al traffico di persone che vogliono entrare in Palestina in quel giorno. E quindi è un viaggio veramente lungo, veramente difficile, frustrante, eccetera. E questo proprio perché non posso entrare dall'aeroporto di Tel Aviv. Invece ci sono altre situazioni, per esempio quella di Yara. Yara ha la famiglia in Giordania e quindi ha i documenti giordani, ora può raccontare la sua esperienza. Karim invece non ha proprio documenti palestinesi, neanche giordani, quindi ognuno ha la sua esperienza. Sì, io come appunto ha accennato Dalia ho la doppia cittadinanza italiana e giordana perché mio papà fa parte della seconda diaspora palestinese, quella del 1977 dopo la guerra dei 6 giorni. La mia famiglia purtroppo non è potuta ritornare a Hebron, noi siamo originari della città di El-Khalil in arabo, Hebron in italiano, e quindi io per ragioni anche di comodità, nonostante abbia comunque il passaporto italiano, anche io quando mi reco in Palestina vado comunque dalla Giordania, dal Gezer, perché comunque anche per quelli come me, avendo comunque origini palestinesi, anche se hanno un passaporto italiano, europeo in generale, è più facile dalla Giordania. Il viaggio è più lungo, ma più facile rispetto che da Tel Aviv, che è sì più corto. Però diciamo che Tel Aviv è un po' la tana dei lupi, in cui arrivano anche interrogatori di 10-12 ore e non si ha la sicurezza di entrare. Poi appunto mio papà, tra l'altro, è stato un combattente della prima intifada, ha fatto settembre nero in Giordania, ha combattuto in Libano, quindi quando era qua in Italia era anche segretario degli studenti palestinesi in Italia, e lui studiava medicina a Pavia. E quindi è stato anche segnalato, era segnalato sia in Israele che in Giordania. Quindi purtroppo noi, anche come figli di seconda generazione, ci portiamo un po' dietro sulle nostre spalle queste, chiamiamole tra virgolette, condanne, che però poi col tempo si estinguono, soprattutto quando si diventa vecchi, insomma, ci si sposa, ci si crea una famiglia. Io quando sono andata la prima volta in Palestina, infatti avevo più paura per mio padre, conoscendo un po' la sua storia, che per me, perché avevo paura che bloccassero lui. Invece è successo che a lui hanno dato il visto in 10 minuti, ma per il semplice fatto che appunto era anziano, era un medico, quindi hanno anche questa sorta di trattamento un po' a doppio senso con certe persone, mentre a me e mio fratello, che siamo giovani, ci hanno trattenuto per 4 ore e mezza. 4 ore e mezza in cui in realtà 4 ore e mezza di attesa. Questo, ripeto, sto parlando del Gisser, del ponte, cioè tra il confine tra la Giordania e i territori palestinesi e i controlli israeliani. In cui a me hanno chiesto perché andassimo in Palestina, se avessimo parenti in Palestina, non capivano nemmeno come non avessimo documenti palestinesi nonostante nostro padre fosse di origine palestinese. Quindi fanno anche domande molto provocatorie, cioè tendono a provocare proprio per cadere nelle loro trappole, diciamo. Un'altra cosa interessante è che controllano tutto. A me hanno proprio preso il telefono di mano e hanno controllato la mia rubrica del telefono mettendo i prefissi dei numeri palestinesi per vedere se avessi i numeri palestinesi. Io ovviamente li avevo già cancellati o dati alle mie amiche in modo che una volta che uscissi poi me le rimandassero. Controllano le mail, i social network, tutto proprio ti prendono il telefono dalla mano e te lo controllano. Mi è successo l'estate scorsa, mi è successa anche a Natale, quando sono andata per andare a trovare il mio ragazzo che appunto abita a Betlemme. Non ho potuto nemmeno dire che andassi a trovare il mio ragazzo, ma sono entrata con la scusa del turismo. Quindi diciamo che anche col passaporto italiano, sono entrata col passaporto italiano, non giordano ovviamente, la questione rimane comunque lì, nel senso che per il semplice fatto di origine, che sei di origine palestinese, vieni super controllata, interrogata, però sicuramente diciamo che anche sentendo un po' le varie esperienze, andare dalla Giordania per quelli come noi è più facile e, tra virgolette, diciamo, più sicuro rispetto che andare a Tel Aviv. Quindi scusa, Chiara, volevo chiederti, ho capito bene, in Giordania vi fanno tutti questi interrogatori, quindi la polizia giordana? Oh, israeliani. Ah, anche in Giordania la polizia israeliana? Sì, perché c'è prima la dogana giordana dalla quale esci in Giordania, poi dalla dogana giordana c'è un pullman che ti porta alla dogana israeliana. Ecco, stavi parlando quindi di questa, della dogana israeliana. Sì, Ok. stavo parlando. Ah, pensavo fosse. Scusate, dovevo aver dovuto specificare. No, ai controlli giordani non ci sono problemi, anche perché, appunto, essendo di origine, cioè, avendo il passaporto giordano, cioè, esci in 5 minuti. Il problema è quando si arriva alla dogana israeliana, quello sì. Sì. Questo mi riguarda la dogana israeliana, sì. Ora mi è chiaro. A dicembre io se mi ricordo che sono andata al confine alle 4:30 del pomeriggio e io sono uscita dalla dogana israeliana alle 8 di sera. Vogliamo sentire la testimonianza di Karim? Sì, allora, io la storia della mia famiglia palestinese, io sono per metà italiano, sono di padre palestinese e di mamma italiana. Sono praticamente come tipo di vita inizialmente, certamente sono quasi totalmente italiano perché sono nato in Italia, qui a Cesena, in Romagna. E sono vissuto in Italia, sono sempre vissuto in Italia. L'unico rapporto che ho avuto con la famiglia di mio padre era durante le vacanze estive, andavo 2 settimane in Giordania, ad Amman, dove loro vivevano, perché la famiglia di mio padre è stata una delle prime a lasciare la Palestina nel 48. Soprattutto il padre di mio padre, il mio nonno. Il mio nonno, tra l'altro, ha un rapporto con l'Italia molto particolare perché probabilmente è stato il primo giovane palestinese d'Italia, visto che era venuto qua con una borsa studio dall'Università di Damasco, gemellata con l'Università di Bologna, ed è stato forse uno dei primi o il primo palestinese a laurearsi all'Università di Bologna in medicina nel 1936. Di che paese è originario tuo nonno? Di Ah, Nablus. Nablus, sì, da Nablus andò a fare l'università a Damasco e a Damasco c'era questo gemellaggio con l'università di Bologna. Ok. Invece il mio approccio con la Palestina è personale e viene più da mia madre piuttosto che da mio padre, perché mio padre ha molte difficoltà a parlare di Palestina, essendo per lui una cosa abbastanza dolorosa. Mia madre è sempre stata un'attivista per i diritti dei palestinesi, ha lavorato negli anni 80 in Progetto Palestina, che è un progetto che faceva appunto adozione a distanza e vendita dei ricami dai campi profughi palestinesi, delle donne rimaste vedove. E quindi io ho imparato la Palestina soprattutto da lei, dai suoi racconti e soprattutto leggendo e studiando. Io ho provato una volta dalla Giordania ad entrare in Palestina, appunto dal ponte, come hanno detto Amal e Dalia, e avevo solo 17 anni, 18 anni, ero un ragazzino molto, molto irrequieto, con delle idee politiche, insomma, ero molto irrequieto e quindi una mia reazione eccessiva a delle domande ha generato, insomma, un interrogatorio dentro uno stanzino. Sono stato lì dentro 4 ore, 4 ore in cui loro cercavano di, perché loro vedevano, hanno visto il mio nome sul passaporto italiano. Karim Canaan, e Canaan, come voi sapete, è un cognome che, insomma, vuol dire, biblicamente vuol dire Palestina, quindi non ci hanno messo molto a scoprire la mia origine. E mio padre, tra l'altro, era già segnalato per adesione a gruppi come Settembre Nero. E mi hanno interrogato per 4-5 ore, insomma, anche con maniera molto pesante cercandomi di parlare in arabo perché io non sapevo parlare in arabo e loro credevano che io gli dicessi una bugia, quindi provavano a dirmi delle cose in ebraico, delle cose in arabo, tentavano di sforzarmi a dirgli delle cose, che famiglia, chi è la tua famiglia in Giordania, chi hai di parenti in Palestina, insomma un sacco di cose. Per fortuna avevo un autista in Giordania, un amico di mia nonna, della mia famiglia. Lui si accorse che io avevo avuto problemi perché io gli avevo detto che l'avrei chiamato subito dopo essere passato. All'epoca non c'erano cellulari, cioè io non avevo il cellulare all'epoca e non c'erano social network, insomma. Lui si preoccupò molto e insomma chiamò la famiglia di mia nonna, che tramite una famiglia molto importante in Giordania, diciamo che tramite alcune telefonate riuscì a venire fuori da quella situazione, ma fu una situazione abbastanza difficile. Ecco, quella è stata l'unica volta che io ho provato a entrare in Palestina e non ho mai più tentato, purtroppo. Quindi dall'età di 17 anni non sei più rientrato in Palestina. No, e non sono entrato nemmeno quella volta. Senti, vorrei continuare con te, poi lo stesso domanderò a Dalia e a Sì. Malda. Quando sei stato... Ah no, te non sei entrato in Palestina, no? No, no, Allora non ti no. posso fare questa domanda, perché è una cosa che ci interessava, cioè sapere come... eravate considerati dai vostri coetanei, dei privilegiati, dei trasfughi o che altro? Vuoi rispondere te, Amal? Dalia, scegliete voi. Sì, allora, dipende perché, no, di solito, almeno ne parlo per me, io sono sempre stata vista come una privilegiata, perché sono sempre stata vista come quella della famiglia che viaggiava. Io andavo lì tutte le estati, quindi comunque cambiavo paese tutte le estati, invece i miei cugini non potevano, non avevano questa possibilità, erano sempre in Palestina. Molti di loro non hanno mai visto nessun altro paese. Adesso io ho una cugina che si è laureata con il massimo dei voti e voleva continuare un master all'estero perché voleva fare un master che in Palestina, nelle università palestinesi non c'è. E ha ottenuto, cioè ha passato il test d'ingresso in università in Belgio, eccetera, però adesso sta faticando tantissimo ad ottenere il visto per uscire dalla Palestina, quindi rischia che non riesca, nonostante le sue competenze, nonostante la sua bravura, eccetera, a non poter realizzare il suo obiettivo. E quindi sono sempre stata vista come una privilegiata, sono sempre stata vista come quella che aveva più libertà degli altri, anche perché comunque avendo una doppia cultura hai la possibilità di mettere in discussione tutto, hai la possibilità di relativizzare il tutto, no? Hai oggettivamente una mentalità più aperta, sei in grado di fare dei confronti, sei in grado di... perché comunque entrambe le culture io le ho sempre... sia quella italiana che quella palestinese le ho sempre interiorizzate, quindi sono stata, ho avuto la possibilità, no, di scegliere, quindi ho avuto la possibilità di ricavare il buono da una parte e il buono dall'altra, di togliere il male da una parte e il male dall'altra, no? E quindi mi sento fortunata perché ho avuto questa opportunità comunque di aprire la mia mente. Invece, per esempio, i miei cugini questa opportunità non l'hanno mai avuta e quindi spesso magari abbiamo degli... Ho degli scontri, no, con loro per delle idee, magari ci sono delle cose, dei comportamenti che a me non piacciono, magari io reputo, che ne so, cose magari che sono anche, razziste, maschiliste, eccetera, però comunque non do tanta colpa alle persone perché penso che non abbiano semplicemente avuto l'opportunità di conoscere nuove realtà, di allargare i propri orizzonti. E quindi è frustrante per loro comunque vedere che alcuni ce la possono fare e loro no, e lo vedono proprio come un'ingiustizia. Senti, prima di uno stacco musicale, Dalia, volevo finire un attimo con te, perché mentre ti ascoltavo mi veniva in mente di conoscere le sensazioni, no? No, visto che ho capito che te sei andata molte volte, che sensazione ti è andato andare in Palestina e ritornarci così spesso, visto che vivi poi la maggior parte della tua vita in Italia? Ma dipende, io ho sempre avuto delle fasi. Quando ero piccola mi divertivo un tantissimo perché comunque lì c'era la possibilità di rivedere tutti i miei cugini che avevano più o meno la mia età, giocavamo insieme per le strade, cosa che qui in Italia non si fa, tutte cose. Quindi mi piaceva un sacco andare. Poi ho avuto il periodo dell'adolescenza in cui ho avuto un rifiuto. Vero e proprio, in cui proprio andavo contro voglia, perché avevo un rifiuto, perché non mi piaceva vedere le ingiustizie, non mi piaceva andare lì e sentirmi oppressa, perché comunque quando sono lì sono una palestinese qualsiasi, quindi non posso muovermi. Io andavo tutti gli anni in Palestina, però non ho mai visitato veramente la Palestina. Io sono stata a Betlemme, che è la mia città. Sono stata sì una volta a Ramallah, sono stata, però non ho mai potuto viaggiare e visitare la Palestina davvero da un punto di vista turistico. E quindi ho avuto soprattutto durante l'adolescenza un rifiuto anche verso certi aspetti della mentalità, eccetera. Poi adesso che sono più cresciuta, tra virgolette, sto riscoprendo molto di più la Palestina, la sto valorizzando molto di più e ho molta più forza per combattere tutto ciò che non mi piace. Bene, con questi ricordi di Dalia, interrompiamo un Grazie. attimo per un piccolo stacco musicale. E appunto, volevo sapere da te quello che avevo domandato già a Dalia e come ti sei sentita considerata dai tuoi coetanei, che sentimenti hai avuto quando sei andata in Palestina? Ma allora, sì, sicuramente è un sentimento di essere tornata nella mia terra. Nonostante non l'avessi mai vista prima, nonostante non, cioè, sono arrivata anche con i racconti con cui mio padre mi ha stregata fin da quando ero piccola, no? Sulla Palestina, sull'Intifada, tutto questo contorno un po' magico. Ma allo stesso tempo tragico, no? Di raccontare della propria terra lontano, quando sei lontano. Quindi è stata un'emozione indescrivibile e è stato bellissimo. Il fatto di sentirsi una privilegiata lì, sì, cioè, è molto evidente, soprattutto per quelli metà e metà come noi, come me ad esempio, come il mio caso, perché anch'io come Karim sono metà e metà, mamma italiana e papà palestinese, però questa a volte viene vista anche un po' sotto un'ottica non sempre del tutto cioè, accettata, ma questo più che altro è un fatto culturale, non tanto, cioè, è un fatto culturale della società araba-palestinese. Però comunque si vede proprio un certo, non invidia, però come dire, caspita, è palestinese che vive fuori, binazionale, con due culture, aperta, più internazionale. Invece noi qua dobbiamo combattere ogni giorno anche solo per andare a comprare il pane, non abbiamo nemmeno il diritto di amare, di esistere, di vivere nella nostra quotidianità, nella nostra terra. Quindi sì, c'è questo senso di sentirsi, cioè loro più che altro ti fanno sentire una privilegiata, ma in realtà tu, almeno quello che ho avuto io, è semplicemente sentirmi a casa mia. E non ho, Non ho mai messo in mostra con orgoglio le mie radici italiane, ma non perché non ne fossi orgogliosa, ma perché in quel momento io mi trovavo in Palestina, cioè nella terra che ho avuto la fortuna di farne parte per tutta la sua storia magica. E quindi io sinceramente certe volte non capivo nemmeno, perché sapete, purtroppo loro un po' idealizzano il mondo al di fuori della Palestina, no? Secondo me. E quindi questo, cioè, si traduce anche un po' in questa loro voglia di giustizia e di non voler vivere in un contesto talmente ingiusto, soprattutto perché ci nascono, fin da bambini sono catapultati in questo contesto di ingiustizia e di difficoltà da ogni punto di vista. Senti, Mal, quindi anche te, anche voi, insomma, fate parte della diaspora palestinese. Io so che te sei un'esperta sull'argomento, quindi ti vorrei chiedere di poterci dire, di parlare come si caratterizza questa diaspora palestinese nei diversi paesi, in Libano, in Medio Oriente, ma anche in Europa, negli USA. Allora, innanzitutto, quando si parla di diaspora palestinese si pensa ai rifugiati palestinesi ed è importante perché i rifugiati palestinesi costituiscono il 42% della popolazione palestinese della Palestina, cioè dello Stato di Palestina, e il 70% dei palestinesi di tutto il mondo, quindi è un dato molto importante. Per quanto riguarda in Palestina, il 26% della popolazione palestinese vivono ancora oggi nei campi profughi dell'UNRWA, che è l'agenzia delle Nazioni Unite che appunto si occupa dei rifugiati palestinesi, e nella striscia di Gaza, dove si concentra il maggior numero dei rifugiati palestinesi. Innanzitutto, quando parliamo di diaspora palestinese, bisogna fare una suddivisione, perché c'è la diaspora palestinese del 1948, quella a seguito della Nakba, quindi della nascita dello Stato di Israele, e quella del 1967, a seguito della guerra dei 6 giorni e quindi della occupazione israeliana della Cisgiordania, così come la conosciamo oggi. Diciamo che il primo vero e proprio esodo palestinese, quindi la prima vera diaspora palestinese, è iniziata con il piano Dalet di Ben Gurion, cioè con il piano di pulizia etnica che i sionisti, le truppe sioniste misero in atto ancora prima del 1948, a partire dal 1947, con la mappatura dei villaggi palestinesi dove erano collocati per distruggerli, poi i massacri come ad esempio quello più famoso, il massacro di Deir Yassin, dove sono stati uccisi 200 palestinesi porta per porta, e quindi tutte queste rappresaglie portate avanti dalle truppe sioniste, volte a far fuggire i palestinesi, ma anche a deportarli in modo forzato dalle città come Haifa o Jaffa. Ecco, io ci tengo a utilizzare i nomi arabi delle città palestinesi, non dico Jaffa, perché Jaffa è la traduzione dall'ebraico della città di Jaffa, comunque Jaffa e Jaffa. Nel primo vero esodo palestinese, quindi quello della Nakba, ha contato tra i 600.000 e i 700.000 rifugiati palestinesi che sono stati espulsi, non che sono fuggiti, ma sono stati cacciati dai territori della Palestina e da appunto quei territori che poi furono occupati dallo Stato di Israele. La maggior parte di questi si sono rifugiati nella striscia di Gaza, che all'epoca era controllata dall'Egitto, della Cisgiordania, che all'epoca era invece controllata dalla Giordania. Dicevo che poi i rifugiati della Galilea e della zona costiera centrale, come ad esempio appunto Nazareth, sono andati o anche Acca, quindi Acri, sono andati più verso il Libano. Una cosa importante quando si parla di diaspora palestinese è il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi, che è un diritto sancito dalla risoluzione 194 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che che disciplina non solo il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi alle loro case d'origine, ma anche il diritto al risarcimento. Poi adesso qui purtroppo non abbiamo tempo per discuterne, ma si vedrà che questo diritto al ritorno in realtà è una norma riconosciuta come norma consuetudinaria nel diritto internazionale, cioè è una norma obbligatoria che gli stati devono, di cui gli stati devono permetterne l'esercizio. Dal punto di vista della situazione dei rifugiati palestinesi nei paesi arabi, beh, sicuramente la Giordania è l'unico stato arabo nella quale i palestinesi godono dei pieni diritti di cittadinanza tutt'oggi. Diciamo che i rifugiati palestinesi in Giordania si dividono in quattro categorie principali, perché è molto importante e anche interessante vedere le origini di questi, proprio per capire anche la diaspora palestinese, no? E molti dei rifugiati palestinesi in Giordania venivano soprattutto dalle zone di Hebron, Jaffa, Ramle, Beersheba, Gerusalemme, poi ci sono gli sfollati del 67 e i rifugiati della Striscia di Gaza. I rifugiati palestinesi hanno tutti ricevuto il passaporto giordano, però non tutti hanno carta d'identità giordana, che significa essere cittadino giordano a tutti gli effetti, come ad esempio lo è stato nel mio caso. Ad esempio, la famiglia di mio padre è stata prima rifugiata rifugiato palestinese in Giordania con l'UNRWA, poi hanno ricevuto il passaporto giordano, poi la carta d'identità giordana fino a quando sono diventati cittadini in Giordania a tutti gli effetti. Per quanto riguarda la Siria, ad esempio, la situazione è già diversa, perché i rifugiati palestinesi e i loro discendenti non possono ottenere la cittadinanza siriana, però hanno un documento di viaggio che permette loro di viaggiare, hanno una carta d'identità che però si riferisce al loro status di rifugiato, quindi nella loro nazionalità c'è scritto non siriana ma palestinese. Sono comunque autorizzati a lavorare, sono pienamente integrati nel tessuto economico e sociale del paese. E molti dei rifugiati palestinesi in Siria possiedono appunto il passaporto giordano o anche americano. In Libano la situazione è quella più, dopo quella della Giordania, è quella più caratteristica, ma nel senso negativo del termine, perché comunque in Libano, anche con i vari problematiche che ci sono state tra la comunità cristiano-maronita e musulmana, quindi poi anche il massacro dei campi profughi palestinesi di Sabra e Shatila, che ricordiamo essere stati condannati come crimini contro l'umanità, la situazione è ancora tutt'oggi molto difficile per i rifugiati palestinesi. Oggi sono presenti in totale 12 campi profughi ufficiali. E il Libano non ha accolto favorevolmente fin da subito i rifugiati palestinesi all'interno dei propri confini, però, e a differenza della Giordania e della Siria, dove in un certo senso i palestinesi godono di certi diritti, in Libano i palestinesi non hanno diritti civili, non possono accedere ai servizi sociosanitari, non possono iscriversi alla facoltà di medicina all'università, e nemmeno al codice di giurisprudenza di infermieristica. La cittadinanza libanese è garantita solo a chi è nato da padre libanese. E nel marzo del 2001, tra l'altro, il Parlamento libanese ha approvato una legge che vieta ai profughi palestinesi l'acquisto di proprietà terriere in Libano. Questo per quanto riguarda la situazione un po' dei rifugiati palestinesi nei vari paesi arabi. Poi, per concludere, la seconda diaspora palestinese è stata quella del 1967, a seguito della guerra dei 6 giorni, che dal punto di vista numerico fu relativamente minore rispetto a quella della Nakba, e si contano appunto 1,5 milioni di rifugiati palestinesi registrati presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. E la differenza è che in questo contesto i rifugiati palestinesi del 67 inizieranno a far parte anche della resistenza armata palestinese, quindi dell'intifada, anche grazie all'influenza dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che faceva del diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi uno dei capisaldi della lotta della resistenza armata palestinese. E la caratteristica dei rifugiati palestinesi della seconda diaspora è che si dividono tra i first time displaced refugees, cioè quelli che sono stati dislocati per la prima volta, e i second time displaced refugees, cioè quelli i rifugiati del 1948 che si erano rifugiati in Cisgiordania e che poi sono di nuovo diventati doppiamente rifugiati dopo la guerra del 67. Quindi questa è la situazione della diaspora palestinese. Ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi riprendiamo con Karim. Toujours se lève après ce nuit de pluie, le soleil et la nuit et tes bombes ennemies au sol écrasé, sort de Bosnie, fallait bosseler. C'était l'année dernière, c'était hier, c'était le mois dernier ou la nuit dernière. Le quotidien d'une misère, quand les tirs ne sont plus, nous pleurons nos mères, nos pères, petites sœurs, petits frères, petites rêves. Et si la terre couvre les cratères, nos peines entre nos prières. Nul besoin d'argent, mais bien un peu d'amour. Peu importe s'il lui est contre lui ou bien s'il est pour faire du salam et de Yom Kippour. Voir les enfants jouer, courir loin des secours. La mère morte n'a jamais aussi bien porté son nom. Car les terres qu'il aborde, sacrifiées au canon. Pardon, mais pardon, comment compter tes morts et oublier ton nom? Palestine, Palestine, Palestine, Palestine, souris, Palestine, Palestine, Palestine. Que dire d'autre que ton nom et le crier aux horizons? Palestine, Palestine, laissez sourire la Palestine. Même sourire derrière. Vorrei finire con un'ultima domanda a Karim, se c'è Karim, ok. Senti, per finire appunto volevo chiederti, voi come gruppi di giovani palestinesi d'Italia, che riferimento siete e che assistenza riuscite a dare ai palestinesi, studenti o no, che vengono in Italia? Sì, allora noi siamo una comunità ormai di più di 180 persone, di 180 ragazzi tra appunto i 14 e i 35 anni. Siamo quindi il punto di riferimento in Italia per i giovani palestinesi in Italia e appunto che vogliono o che vengono in Italia anche da poco tempo, appunto, come hai detto tu, studenti o anche lavoratori. Noi abbiamo però una rete ancora, diciamo, amatoriale, povera, ecco, nel senso che non prendiamo fondi da nessuno, siamo indipendenti, nonostante che collaboriamo con chiunque abbia i nostri stessi obiettivi, ovvero la divulgazione della causa palestinese e la difesa della causa palestinese. Abbiamo aiutato tanti studenti palestinesi che sono venuti qua in Italia tramite appunto questa rete, diciamo, amatoriale, amichevole tra di noi. Mi ricordo uno dei casi più particolari è stato l'anno scorso, di questo ragazzo palestinese di Gaza che studia business and management a Milano, studia economia, che era scomparso perché poi abbiamo saputo dopo che ha avuto un momento molto particolare, ha avuto un crollo nervoso in quanto studiava veramente tanto ed era molto sotto pressione perché poi c'è anche questo da dire che i ragazzi di Gaza sono sottoposti anche a una pressione psicologica personale, nel senso che appena riescono a uscire da Gaza e quindi a venire in un altro paese a studiare, loro vogliono dare il meglio di loro stessi, perché il meglio di loro stessi significa anche risolvere la loro condizione molto dura, molto difficile, e non solo la loro, ma anche quella delle loro famiglie, fondamentalmente. Questo ragazzo era scomparso, ci siamo messi Noi dei giovani palestinesi, soprattutto io, il presidente Alaa e il nostro vicepresidente, a creare una rete di contatti, contattando i suoi contatti Facebook, cercando, telefonando agli ospedali a Milano, e insomma, alla fine siamo riusciti a trovarlo. Questo ci era stato chiesto direttamente, ci era stato segnalato addirittura dall'ambasciata palestinese in Italia. Siamo riusciti a trovare questo ragazzo. Il nostro presidente, che ha veramente un cuore gigante, gigante, perché è veramente un gigante, è andato da Torino, è andato immediatamente a Milano a trovare il ragazzo che era ricoverato in ospedale, gli ha portato il suo sostegno, gli ha portato il suo aiuto, è stato con lui anche diversi giorni. Insomma, questa è la nostra rete, questa è la nostra forza. È fatta da noi, dal nostro cuore, dalla voglia di aiutare. Nelle nostre possibilità, noi cerchiamo di fare tutto, a volte anche al di sopra delle possibilità, mettendo anche, per esempio, fondi di tasca nostra per aiutare ragazzi, soprattutto magari a trovare un alloggio, quindi creare una rete anche con altre associazioni italiane per trovare alloggio a dei ragazzi, per trovargli. Per aiutarli, per esempio, con la lingua, per aiutarli, per esempio, con le iscrizioni all'università e quant'altro. Insomma, questo è un punto di forza che noi abbiamo e che viene meno fuori perché non è una cosa di cui facciamo vanto, appunto, sui nostri social o quant'altro, ma è una cosa di cui andiamo veramente orgogliosi perché ne siamo veramente fieri di poter aiutare. Con quel poco che abbiamo, poter aiutare il più possibile. Sì, certo, penso che sia veramente una buona attività quello che fate, quello di accogliere, diciamo, no? Chi arriva in Italia e come tu hai raccontato mi ha fatto molto pensare, cioè al di là del spaesamento si possono avere appunto anche crolli o problemi psicologici, no? E quindi è anche Assolutamente. importante sapere che intorno uno ha delle persone, come hai detto te, che possono sostenere anche, no? Questo tipo di disagio. Bene, per il momento il tempo a nostra disposizione è finito, quindi io saluto Amal, Dalia e Karim per il loro apporto alla conoscenza sempre più profonda che ci interessa a noi e spero che interessi anche i nostri radio amatori. E quindi vi ringrazio di nuovo e vi Grazie a voi chiamo. per averci Grazie a dato voi. questa opportunità e questo spazio. Grazie a voi per l'invito, grazie. Grazie a voi. E speriamo di darvi ancora spazio per altri argomenti che a noi interessano e penso che sia importante anche che altri conoscano della vostra realtà di palestinesi italiani di seconda generazione. Prima di passare alla consueta rassegna musicale, vi informiamo che il giorno 9 novembre partirà la campagna Stop the Wall per un mondo senza muri. Stop the Wall è un'organizzazione nata in Palestina che lancia, come ogni anno, nell'anniversario della caduta del muro di Berlino, questa campagna. Per tutto il mese di novembre, in varie date, si terranno una serie di webinars. Sono delle web conference dall'India, dalla Palestina, dal Brasile e da altri paesi, dove attiviste e attivisti discuteranno delle lotte contro i muri di cemento, ma anche quelli del razzismo, dello spossessamento, della distruzione e di come costruire solidarietà internazionale oggi. Troverete i link utili per l'iscrizione e per il programma sul blog di Buongiorno Palestina. 57. Per venire alla musica, ascolterete Ismael Serrano che interpreta Luces Errantes. È un concerto solidario organizzato dal Comitato Spagnolo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, l'UNRWA, che si è tenuto a Madrid nel 2014 a beneficio dei bambini rifugiati palestinesi ospiti presso la Riviera di Madrid. La canzone dice: un ragazzo fa volare un aquilone sopra una città con le spalle al muro. Sul muro la sua figura gioca a dipingere 100.000 colombe bianche. Afferra il filo con quella forza di chi ha perso quasi tutto. Non lasciare scappare il suo aquilone. Dall'alto vedrai la sua casa, l'uliveto, il suo ieri e la sua speranza. Luci vaganti in una terra strana, ombre del passato. Un ricordo goffo e fragile, la dura vita del rifugiato. Luci vaganti in una strana terra. Il secondo brano che vi facciamo ascoltare è un concerto che si è tenuto a Matera per un progetto a cura dell'Associazione Cultura e Libertà. Orientalismi sonori. Ascolterete le parole di Fadwa Turkan in Felice nel suo grembo, omaggio ad Edward Said, con un'orchestra composta da suonatori di vari paesi, un compositore e suonatore di oud tunisino, un clarinettista e flautista cubano, un violinista iraniano che suona il violino iraniano, un francese alle percussioni e una danzatrice italiana. Troverete i nomi del gruppo sul blog di Buongiorno Palestina di questa puntata. Nell'ultimo brano ascolterete Souris Palestine, tratto da un video in ricordo del fumettista Enzo Piscella, con tante vignette satiriche su Israele. La voce è di Manel Iptissen, giovane cantante musulmana nata a Besançon da padre turco siriano e madre marocchina algerina, che ha partecipato nel 2018 a The Voice, il popolare reality show televisivo e concorso di canto che si tiene ogni anno in Francia. La Manel ha riscosso grande successo, ma dopo la sua esibizione ha suscitato molte reazioni ostili per le sue opinioni postate sui social media, che ha poi rimosso. I siti pro-Israele l'hanno accusata di essere membro dell'estrema destra musulmana e cospirazionista per aver preso posizione contro Israele e messo in discussione il coinvolgimento di islamisti negli attacchi terroristici di Nizza. Il governo è il vero terrorista, aveva scritto nell'agosto del 2016. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah. Me levanto temprano, moribundo, perezoso resucito, bienvenido al mundo, con noticias asesinas, me tomo el desayuno, camino del trabajo en el metro, aburrido vigilo las caras de los viajeros. Compañeros en la rutina y en los bostezos. En el asiento del frente, un rostro de repente, claro ilumina el vagón. En sus gestos traen recuerdos de otros paisajes, otros tiempos, en los que una suerte mejor me conoció. No me atrevo a decir nada, no estoy seguro, aunque esos ojos sin duda son los tuyos, más cargados de nostalgia, quizás más oscuros, pero creo que eres tú y estás casi igual. Hermosa como entonces, quizás más. Sigues pareciendo la niña más triste de la ciudad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde los primeros errores del interrogante en tu mirada? La ciudad gritaba y maldecía nuestros nombres, jóvenes promesas. No teníamos nada, dejando los portales, los ecos de tus susurros, buscando cualquier rincón sin luz. Agárrate de mi mano, que tengo miedo del futuro, y detrás de cada huida estabas tú, estabas tú. En las noches vacías en que regreso, solo y malherido, todavía me arrepiento de haberte arrojado tan lejos de mi cuerpo. Y ahora que te encuentro, veo que aún arde la llama que encendiste. Nunca, nunca es tarde para nacer de nuevo, para amarte. Debo decirte algo antes de que te bajes de este sucio vagón y quede muerto. Mirarte a los ojos y tal vez recordarte que antes de rendirnos fuimos eternos. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo te acuerdas de mí? Y una sonrisa tímida responde. Perdone, pero creo que sí he equivocado. Disculpe, señorita, me recuerda tanto a una mujer que conocí hace ya algunos años. Y más viejo y más cansado vuelvo a mi asiento. Aburrido vigilo las caras de los viajeros, compañeros en la rutina. Dalle manine di un bimbo del mio paese.

Palestine, Palestine, Palestine. Souris, Palestine, Palestine, Palestine. Que dire d'autre que ton nom et le crier aux horizons.